Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. E io vago! Aiuto! Io soffoco! Tassisti hanno assolutamente ragione. Noi siamo assolutamente a fianco di loro, no? E in 24 ore non si può cambiare una legge mettendo in concorrenza così un settore pubblico. Il tassista va valorizzato perché è il biglietto da visita della più bella città del mondo. Quindi devono anche loro fare un piccolo sforzo di migliorare, perché sono l'immagine che ha il turista quando viene qua. Quindi stazioni, aeroporti e taxi devono essere privilegiati. Siamo con voi, ma voi lo sapete, cioè per noi il servizio di trasporto pubblico non di linea è fondamentale. È il biglietto da visita della città, per cui deve essere regolamentato come già è, in maniera chiara, può essere sicuramente migliorato, però le riforme dall'alto non ci piacciono e sicuramente complicano tutto il sistema. Io dico, quel partito pensasse bene a quello che sta a fare, perché prima o poi le elezioni ci stanno. Giornata di ordinaria serenità a Roma, dove i tassisti, ai quali si sono mischiati così un po' di nostalgici, qualche saluto romano, bombe e carta, pure un tirapugni immortalato da tutte le prime pagine dei giornali, uno che indossava il tirapugni. E dopo tutto questo, in serata, il governo ha annunciato che c'è l'accordo con le 21 sigle sindacali di tassisti. Ripeto, 21 sigle sindacali. È stato annunciato che nel giro di un mese ci sarà la normativa, no? Quella per cui la politica, come al solito, aveva preso tempo dicendo dovremo decidere entro il 31 dicembre 2017 per regolamentare il trasporto dei noleggiatori con conducenti, di Uber, insomma il trasporto non servizio pubblico. Ora un mese e faremo tutto. Che se uno la vuol vedere un po' in maniera maliziosa, può voler dire anche, insomma, scendi in piazza con un tirapugni, fai un po' di casino, quattro bombe carta, saluti romani, risse, resse, spintoni, urla, e vedi che la politica si dà da fare. Pericoloso precedente, pericoloso. Vabbè, poi c'è il caso di Beppe Grillo che sta con i tassisti, la Raggi che così a pappagallo ripete siete il biglietto da visita della città. Le polemiche politiche su queste, ma va bene. Allora, ci sono 4 gradi a Milano, signori. 4 gradi, nebbia. A Perth, ci fa sapere una nostra ascoltatrice, 26 gradi e un po' di freschino. Grazie. Perth, città magnifica. Australia. Chiara, grazie Chiara che ci ascolti Down Under, evviva. A Gorgonzola ci sono 3 gradi con nebbione, e lo so, c'è la nebbia anche a Milano. un grado a San Pellegrino Terme per discendere la Val Brembana, siamo sempre in Lombardia. 6 gradi a Paese, salutiamo Dieng da Paese, Treviso, grazie Dieng, 6 gradi. Vorrei sapere da Paoletta Saluzzi, visto che Mauro Corona ieri qui in diretta ha detto che è la cosa più inutile del mondo dire i gradi, ha detto ma come potete voi Radio 24 perdere tempo così a dire i gradi, ma che roba inutile, eh? Vabbè, Paoletta Saluzzi. Buongiorno Paoletta, ci sono. Buongiorno Superlino. Invece oserei dire Roma non pervenuta. Non pervenuta. Dopo quello che abbiamo visto ieri. Ieri 30 gradi in piazza. Almeno, perché le proteste sono proteste e sono sinonimo di democrazia finché l'avremo. Però le bombe carte, i tirapugni, i saluti. E la polizia che ieri era ovunque come solito, le forze dell'ordine come al solito, che sembra che le clonino, invece sono sempre loro, ma sono riescono a stare ovunque. Non è stata una bella giornata. No, non è stata una bella giornata, ma adesso ne parliamo, ne parliamo. Intanto ci sono anche 7 gradi a Putignano, lo sapevi? E un grado a Lugano. Bene, però più freddo più si mangia cioccolata calda. Allora, insieme alla nostra Paola Saluzzi, che alle 10 in onda su Sky c'è il nostro super mega dear Luca Dini, direttore di Vanity Fair, ben ritrovato. Buongiorno. I suoi peregrinari nel mondo. Dove sei stato negli ultimi 10 giorni? In India. Ecco, per l'appunto. Che uomo. Sì, vabbè. Così. Però devi dire la temperatura percepita, dai. La temperatura percepita. Ah, che meraviglia! Ieri, geniale. Allora, oggi 4 gradi, ma a Milano con nebbione -6. Pinguino. Esatto. Va bene, insieme a Luca Dini e Paola Saluzzi apriamo il Parlamento, dai, dobbiamo subito tuffarci sulla questione dei tassisti. Se uno esce, prende il caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Caro direttore, sappi che ci ascoltano moltissimi tassisti. Andiamo fortissimi, andiamo va sui taxi. Però se dobbiamo fare delle critiche qui le facciamo, Facciamole subito allora. Ecco. Poi dopo vi descrivo fisicamente com'è Luca Dini, cari tassisti, quindi doveste mai oggi avere una chiamata da quelle parti. No, guarda, io siccome sono un grandissimo cliente e amico di tassisti, ha ragione, se ne ha coraggio dire che sono il biglietto da vista di una città, e questo è il problema, secondo me, per Roma. Perché prendere un taxi a Milano e a Roma sono due esperienze, diciamo, diverse. Sì, più che dire diverse, come due continenti diversi. Perché dici l'esperienza peggiore che hai avuto a Roma. Immagino che a Milano un po' meglio. Ma non, sì, devo dire la verità, è così. È brutto dire, però insomma, anche perché poi ci sono le solite mele marce, quello che vuoi tu, però l'esperienza è rovinata da una media molto bassa di esperienza. Una media molto bassa. Oh, cara sì. Paola, hai capito? Di educazione, di ma insomma, io vivendo a Roma prendo il taxi a Roma e quindi sono abituata ai taxi di Roma, quindi non so se questo sia, come dire, riporto con me l'esperienza del direttore Luca Dini. Io credo che nelle ragioni che possono aver spinto a fermare i taxi, ribadisco, io mi fermo sulle ragioni che hanno motivato questa protesta. Sì. Quando le proteste diventano qualcos'altro e poi la motivazione è sempre si era infiltrato qualcuno, tant'è che oggi noi avremo ospiti con noi rappresentanti dei tassisti, dico fate attenzione a chi si infiltra. Ma sì, la maggioranza dei quali, lo diciamo, sono persone che... Purtroppo questo rischia di rovinare la maggioranza delle persone che chiedono, che domandano, che stanno portando avanti una protesta. Benissimo. Allora, le bombe carta fanno una certa impressione, dice sono carta, e vabbè, intanto hanno mandato i frantumi i vetri. Ma sì, certo, non, ma no, poi, ma poi no. Ma mi sembra no. normale, cioè, ecco appunto, visto che sono il biglietto da visita per i turisti, ma pensa ieri un bel turista che girava per Roma e ha visto questo assembramento, dire, ma per carità, le ragioni di tutti vanno capite, ma la sensazione, avete anche voi la sensazione che in Italia per far valere le proprie ragioni, non so se avete visto il video di Piff, l'attore che è andato da Rosario Crocetta, presidente della Regione Sicilia, a urlargli tutta la rabbia per difendere i disabili. Cioè, in Italia la sensazione è che bisogna fare così, no? E a me spaventa questa cosa, Luca. Sì, non so, urlare per difendere i disabili è sacrosanto. Ma no, ma certo, fare però quello che è successo ieri non è sacrosanto. No, ma è chiaro, ma il principio che o fai così o nessuno ti ascolta. E questo è il dramma vero, no? Capisci? Poi Non lo so, un gatto che si morde la coda, Alessandro, se appunto nessuno ti ascolta, perché forse se ieri fossero stati tutti disabili, quelli a urlare, a lanciare bombe carta e a fare rumore, avrebbero ottenuto di più, ma sono disabili, sono persone per le quali le barriere architettoniche a Roma non sono barriere, sono muraglie cinesi, sono maleducazione, sono risultati mai raggiunti e che evidentemente nessuno si sta impegnando a far raggiungere, sì. Nessuno. Allora, fossero stati tutti disabili, avrebbero dovuto chiedere e pretendere. Non c'erano disabili ieri. No, chiaro, c'erano. C'erano persone abili a fare violenza ieri. Eh sì, intanto a Reggio c'è il problema, che voglio dire, anche qua a Milano c'è il blocco dei taxi e da domani, insomma, se riprendono, tutti riprenderanno a usare i taxi. A Roma non lo so, perché francamente se c'è un'alternativa chiunque ci salterà sopra, perché il servizio è quello che è. È quello che è. No, ma guarda, tu l'hai detto chiaramente, anche un ascoltatore ci scrive, ha ragione Luca Dini, a Roma i tassisti sono terribili rispetto a Milano. Tassisti di Roma! Non è soltanto che si sono infiltrati nella protesta, purtroppo si sono infiltrati nel servizio, nelle marce. Cioè, c'è un problema proprio tra i tassisti. E poi sono pochi e ci sono quelli invece fantastici, onesti e per bene, che però vengono tirati a fondo dagli altri. Quindi il problema è all'interno della categoria, prima di tutto, secondo me. Sì. E tra l'altro anche il giornale pubblica una foto del tirapugni, ma è un altro tirapugni rispetto a quello che pubblicano tutti gli altri, quindi sarebbero già due tirapugni, chissà quanti tirapugni c'erano in piazza, va bene, insomma. Questo è. Ci fa sapere che a Reggio Calabria ci sono 6 gradi, ce lo fa sapere il nostro amico operatore ecologico, grande, anche perché passa il tempo sulle strade a ripulirle, vabbè, insomma, con i tassisti, la polemica politica, il sindaco che sindaco Virginia Raggi che sta dalla parte dei tassisti, ma qui insomma secondo me è un po' un riflesso della politica che ha sempre cavalcato o non cavalcato queste proteste, no? appena si vedono delle potenzialità di voti, non voti, l'abbiamo già visto tutto questo, come dire, esatto. No, e ancora lo vedremo in futuro, quindi comunque a Roma ci sono 5 gradi. A Roma 5 gradi, bellissimo. Tra l'altro, per la precisione, per far contento Mauro Corona, così Mauro Corona ce l'ho. In tutto esatto. Questo, sentite Beppe Grillo che sfotte la Raggi. Sapete la questione delle orecchie grandi, no? Le polizze. Sentite qua Beppe Grillo, ieri a Roma. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate con l'orecchio, il simbolo di Seul, una delle più grandi capitali del mondo, il simbolo del comune è un orecchio. Noi abbiamo una sindaca con delle orecchie così, allora potrà ascoltare e dovrà ascoltare. Verificando gli impianti, perché gli impianti non sono ancora in questo posto. Grillo. Io qua per esempio la prima cosa che farei è una polizza, per esempio. con Virginia Raggi davanti, che rideva ovviamente, perché ma Virginia Raggi, siamo in uno spettacolo di Beppe Grillo, le orecchie grandi, la polizza per salvare un teatro, capito Luca? Questo è il destino di stare con Beppe Grillo, vabbè, è la parte migliore di stare. esatto, è la parte migliore, tu dici, vabbè, comunque questo è. Allora, dobbiamo parlare del Partito Democratico, ebbene sì. Vi lascio al tra... lo so. vi lascio al traffico perché oh, c'è una bellissima roba che viene pubblicata in rete, la potete trovare. Sai, Paola, tu li ricevevi questi biglietti? Ti vuoi mettere con me? Sì. No, che dovevi barrare le crocette, no? Quanti devi ricevere? Già qua. Se ricevevi un biglietto dove ti scrivono ti vuoi mettere dove dovevi barrare le crocette, cestinato. Comunque pare che ne giri una nuova versione, che è questa: ti vuoi mettere con me e devi barrare la crocetta? Sì, no, oppure Emiliano, non si sa, Michele Emiliano, va bene, dopo il traffico, il PD. Il primo premio va al traffico, con il pelo lungo, con le corna aperte. Maremma ciuca, ma hanno circonciso a mia insaputa. Ma chi se ne frega di Emiliano? Un giudice passato alla politica, ma che valenza ha? Quanto alla storia della Democrazia Cristiana, io sono sempre stata di sinistra e sto con Renzi, to. Mi candido alla segreteria del PD perché questa è casa mia, è casa nostra e nessuno può cacciarci via. Rimane, caro Luca Divi, cara Paola Saluzzi, rimane Michele Emiliano, il dado è tratto. E dice anche: gli scissionisti non hanno il nome, non hanno tesi, non hanno programmi, non hanno nulla. Bella questa storia politica, caro Luca, Fantastico. Tu l'hai capita? Hai capito perché c'è questa scissione? Che poi adesso si sono scissi gli scissionisti? No, ma non lo voglio neanche capire. ti rifiuti? Proprio così. Oh. Paola, no. Tu che bello potersi occupare di taxi oggi, di la verità. Oh, occupiamoci di taxi, che goduria. Grazie tassisti che ci avete dato dei bei titoli. Grazie tassisti, continuate così. Mi prego. Lo spirito di Alino, questa è molto carina. No, è una scissione dolorosa, travagliata. È stato letto con molta attenzione quanto detto da Romano Prodi, sì. Ieri, tra gli altri. Vedremo. È una scissione scissa. Staremo a vedere a un certo punto. Ribadisco. Quando queste cose avvengono, vuol dire che. Si è in regime democratico, sì. E possono avvenire. E quindi, esatto. Questo, come sempre dicevo, vuoi vedere sempre il lato positivo della cosa. C'è la scissione scissa. C'è evidentemente un desiderio politico che porterà da qualche altra parte. In tutto, signori, ha rialzato la testa, ormai ufficiale, il grandissimo baffo. Quello che ieri Mauro Corona, da lombrosiano convinto, ha detto: attenzione, potrebbe fare il dittatore. Lui vorrebbe fare il dittatore. Mauro Corona è lombrosiano, io l'appoggio in questo. E il nostro baffo preferito è Massimo D'Alema. E allora noi dobbiamo far partire e ripartire la nostra rubrica. Lo psicologo di D'Alema. Lei però non c'era neanche a quell'assemblea. Come mai ha deciso di non andarci? Avevo un po' di raffreddore. Sì, vabbè. Giachetti ha detto che il vero conducador della scissione è lei. Sì. Conducador l'ha chiamata. Io penso che la questione Giachetti è stata risolta dalla Raggi. Se lei poi risolvesse anche i problemi di Roma sarebbe un vantaggio notevole. Diciamo. Almeno il problema di Giachetti l'ha risolto. Oh, caro dottor Radini, cara dottoressa Saluzzi. Ecco, questa è la sindrome di D'Alema. La sindrome del mamma mia. Potremmo mettere. No. Diciamo che se si andasse a votare ci fosse da una parte chiunque, anche un cammello, dall'altra D'Alema, anche il cammello risolverebbe il problema di D'Alema. oggi il direttore, caspita, non si è mai visto India, candidato un cammello. È tornato filosofo più che mai. Sì, sì, sì. È un cammello, è un po' come la storia della cruna, del lago, il cammello, D'Alema. Dobbiamo un po' aggiornarla, insomma. È più facile che un cammello entri in un'urna, venga eletto, piuttosto che un D'Alema entri in Parlamento. Vabbè, Paola, lo psicologo di D'Alema, quindi vabbè, sindrome del cammello. Ma cosa prevede la pagina lo psicologo di D'Alema? No, prevede che tu debba fare, che debba dire una diagnosi, se hai una diagnosi su quale è il problema. La se studio ne... e ve la presento mercoledì prossimo perché mi serve una settimana. Sì, esatto, per fare una diagnosi. È narcisismo. Narcisismo. Oh, patologico. Narcisismo patologico. Oh, questo è lo psico. Narcisismo patologico. Bella. Signori, io devo fare un grande applauso. Io lo so che politicamente non la pensate, neanche io la penso come lei in Francia, ma... E voglio partire da te, cara Paola. Sto parlando di Marine Le Pen. Non mi chiedono un applauso a Marine Le Pen? No, no, io non ti chiedo. No, no, ecco, io non ti chiedo un applauso per la politica di Marine Le Pen. Però Marine Le Pen è andata in Libano e non ha indossato il velo. Si è rifiutata entrando in moschea dicendo: io sono una donna libera, non metto il velo se me lo volete imporre, non sono musulmana, non sono, e io il velo in testa non lo metto. Ma scusa, al di là della politica, non ti sembra un gran gesto di libertà? No, no. Sai perché? Perché se io vado a entrare in un luogo religioso... Sì. Credo che sia corretto attenersi alla norma che vige in quel luogo. Porto un esempio, oggi forse è caduto, no, credo ci sia ancora, ma un tempo, pur col gran caldo che poteva fare a Roma a luglio e ad agosto, in minigonna, canotta e bicchiere con la bibita non entravi né in San Pietro né in Santa Maria Maggiore. Quindi doveva mettere il velo, secondo te mette un velo. Allora, io sono entrata in una moschea senza mettere il velo, sono entrata nella moschea blu di Istanbul, non faccio la politica, non sono e non credo e spero che Marine Le Pen non sia mai un capo di Stato, ma insomma non credo che sia stato un gesto di libertà, credo che sia stato un gesto di politica. Di politica. Sicuramente l'ha voluto anche, far sapere. Se tu vuol dire che fai una cosa, che fai una cosa per la libertà delle donne, allora partiamo da... Allora, va bene, accetto. Tu Luca, che ne pensi di questo gesto? Sono d'accordo con Paola, nel senso che intanto Marine Le Pen poteva anche stare a casa. Ma a prescindere, quanto dovrebbe stare a casa. Tu dici, vabbè, insomma, e qui c'è il giudizio. No, però voglio dire che sì, è solo politica. È solo politica e non è certo da lei che vorrei farmi rappresentare quando si tratta di dire di parlare di libertà o di rispetto. Va bene, il giudizio è chiaro. Vedete, non vi ho portato dalla mia. Benissimo. Ottimo, come se la tua, vogliamo dirla tutta, Lino. Siete? Siamo molto stupiti della tua. No, ma io dico in questo caso un applauso, ma non lo so, io gli applausi. Ma no, ma per il gesto, mica sto dicendo per la politica di Marine Le Pen. No, ma sì, va bene, allora, se arriva uno che ti dice, tu sei una donna, china la testa, mettiti il velo, se no qui non entri, beh, certo che ti posso rispondere, no, grazie, scusi un attimo. Beh, il concetto un po' così, infatti è saltato l'incontro col Gran Mufti, siccome non si è rifiutata di mettere il velo, è saltato l'incontro. No. Che dirà, vai, per fortuna è saltato l'incontro, insomma, voglio dire... A che sia stato tutto virato in politica questo ma ti rinnovo. Sono altre, i problemi sono in altri paesi del mondo, le mutilazioni genitali femminili, quelli sono i problemi gravi con i quali bisogna fare Emma Bonino e schierarsi tutta la vita e andare all'ONU e parlare a tutte le Nazioni Unite insieme, quelli sono gesti. Dici, sono abbastanza, sono così vecchio da ricordare il giorno in cui le donne in Italia mettevano il fazzoletto per entrare in chiesa, perché io me lo ricordo. Te lo ricordo. Quindi, sai. Vabbè, questo gesto, insomma, ci ha divisi, ma io devo ricordare alle 10 Paola Saluzzi su Sky e Vanity Fair, dimmi chi sono costei e costui in copertina che vinceranno gli Oscar per te. Forza, dillo tu. Sono Emma Stone e Casey Affleck. Secondo te allora, vinceranno? Secondo Vanity Fair? Sì, quanti Oscar? Quanti Oscar? Uno a testa. Ah, uno a testa. Così, miglior attore, miglior attrice. Il pronostico di Vanity Fair oggi in edicola. Vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki skate. 24 mattino. Ci siamo signori, le 7:18 minuti, eccoci qui nello spazio dedicato alla lettura dei giornali, è la rassegna stampa di 24 mattino e siamo pronti caro Peter Bescapè, andiamo, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali ragazzi. Siamo arrivati a mercoledì 22 febbraio con i titoli, le aperture, il Sole 24 Ore apre sulla concorrenza, l'Italia è ferma, apertura dei mercati che può valere fino a 2,6 punti di PIL in 5 anni. Ovviamente si parte dalla questione tassisti. Taxi, gli scontri, poi l'accordo. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Mentre Repubblica, taxi ambulanti, giorno di fuoco, raggi in strada, sono con voi. Anche la stampa, taxi in rivolta, raggi sotto accusa. Il Fatto Quotidiano invece la prende alla larga. L'Italia è senza governo. Città assediate dai tassisti, lavori del G7 al palo, ministri paralizzati dalle risse del PD. Il Messaggero ha una foto con gli scontri ieri a Roma. Roma in ostaggio è il titolo di prima pagina. Mentre il Giornale, protesta selvaggia, tassisti, adesso basta. Libero invece si concentra, clandestini, delinquenti devastano un traghetto, è una vicenda avvenuta sul Cagliari-Napoli. La Verità, dopo lo scandalo tirato fuori dalle Iene, il titolo di prima pagina, nel governo comanda una lobby gay, questo è il titolo principale. Mentre il Manifesto guida a destra e si ritorna su Roma, gli scontri e le questioni ben chiare dei tassisti che tra poco vedremo. Intanto voglio partire dai due casi giudiziari che ieri sui giornali, avete sentito anche il giornale radio, erano ben in evidenza. Primo caso, quello dello stupro finito in prescrizione a Torino. Violenza nei confronti di una bambina. Che cosa ha previsto il ministro della giustizia Orlando? Beh, il guardasigilli invia gli ispettori a Torino. Voglio capire, è un fatto che fa ribollire il sangue. Il guardasigilli Orlando, ministro della giustizia, vuol sapere perché a Torino è potuto finire in prescrizione il processo contro il violentatore di una bambina che nel frattempo ormai è diventata una donna. Ad Alessandria è stato condannato a 12 anni in primo grado questo orco, ma non c'è stato il tempo per confermare tutto in appello, come ha rivelato ieri Repubblica. E tutti i quotidiani oggi si concentrano su questa vicenda. C'è un'intervista sulla stampa a Francesco Saluzzo, che è il procuratore generale di Torino. La Corte d'Appello è diventato il vero collo di bottiglia dei processi italiani, dice. La situazione è disastrosa, ci sono 20.000 fascicoli pendenti in Corte d'Appello, con il numero di giudici che abbiamo è impensabile smaltirli in tempi brevi, ma qualcosa è stato fatto. E continua in questa intervista alla stampa, intervista di Claudio Laugeri. Sia chiaro, io non colpevolizzo gli avvocati che utilizzano uno strumento del tutto legittimo offerto dall'ordinamento, fanno il loro mestiere, nulla da dire. Il problema è che bisogna riuscire a scoraggiare gli appelli mirati soltanto alla dilazione temporale. E forse uno strumento c'è. Ho annunciato ai colleghi l'intenzione di aumentare gli appelli incidentali della Procura Generale. In questo modo il rischio di una condanna più alta nel processo di secondo grado potrebbe scoraggiare gli appelli con mero intento dilatorio. Questa è la ricetta del procuratore generale di Torino. Sta di fatto che adesso tutti analizzare il perché e il per come. Il dato di fatto è abbastanza sconcertante e sotto gli occhi di tutto. Come sconcertante è l'altra vicenda di cronaca che riguarda il killer del catamarano Filippo De Cristofaro, colui che uccise Annarita Curina nel giugno del 1988, già evaso due volte dall'Italia, poi preso in Portogallo, detenuto in Portogallo in attesa di estradizione in Italia, di colpo si è scoperto che è stato rilasciato dalle autorità portoghesi. E si è scoperto ieri, anche se lui è stato rilasciato dal carcere da ottobre, pare perché in Portogallo, non essendoci la pena prevista dell'ergastolo, c'era reticenza a estradarlo in un paese, l'Italia, dove lui invece doveva scontare l'ergastolo. E allora Roma contro Lisbona. Colpa vostra se è libero il killer del catamarano. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 16. Anche qui si capirà, si vedrà il perché, il per come, dove è stata la falla che ha portato tutto ciò. Io voglio solo sottoporre l'intervista al fratello di Annarita Curina, Michele Curina. Una famiglia che, per la verità, per la stessa missione non hanno mai, quasi mai parlato. Familiari che sono sempre stati in silenzio. E ora rilascio un'intervista al Giorno, l'intervista la trovate a pagina 4 e 5. Un assassino protetto ad alto livello, si chiede il fratello della vittima Michele Curina in questa intervista di Roberto Damiani. Ma in che paese viviamo? Le autorità non ci hanno mai detto nulla in tutti questi anni, neppure una telefonata, neanche quando hanno arrestato De Cristofano, neanche in occasione delle sue puntuali fughe. Le vittime devono farsi da parte, come se non abbiano titolo a parlare. Questa tragedia non finirà mai, ma si stanno chiedendo in che paese viviamo, dove un assassino viene scarcerato da 4 mesi senza che la magistratura italiana ne abbia contezza. È inaudito. Dalle autorità neanche una telefonata. Siamo al festival del lassismo. I giudici portoghesi si sono semplicemente dimenticati di avere a che fare con un ergastolano, trattandolo come un ladro di galline, e lo hanno liberato. Il problema è che nessuno dall'Italia ha chiesto informazioni sull'esito dell'estradizione. Ma De Cristofaro vi ha mai risarciti? La Corte d'Appello stabilì che i danni andassero quantificati in sede civile, ma noi non facemmo nulla. La famiglia avrebbe speso soldi per niente e rinunciò a qualunque pretesa risarcitoria. Si disinteressò anche della vendita del catamarano, che per metà era di Annarita. Con la sua morte era finito tutto. Questo parla... In realtà non è il fratello, ma a tramite il fratello è l'avvocato di famiglia che interpreta in qualche modo qual è il sentore del fratello, l'avvocato Stefano Tornimbeni, che in qualche modo si fa portavoce delle istanze del fratello di Annarita Curina. Appunto, loro non si sono mai esposti in prima persona con i media, con i mezzi di informazione, e a raccontare qual è questa situazione che stanno vivendo. In tutto voglio saltare a Bologna, dove c'è questa storia raccontata dalla Stampa, lo fa Nicola Lillo a pagina 10, riguarda i commercianti e alcuni commercianti e una sorta di rivolta, dicendo: paghiamo noi le ronde antispaccio. Sono nel quartiere Bolognina, quartiere rosso per eccellenza, zona, almeno dicono alcuni di loro, ormai resa invivibile. L'amministrazione del PD li attacca, è un'iniziativa fai da te, pericolosa, improduttiva. Però questi commercianti, una sessantina, racconta la Stampa, si sono uniti in un comitato definito Progetto Bolognina, dicendo: beh, guardate, è vero, le aliquote qui sono già tra le più alte d'Italia, le tasse ci sono, ma siamo pronti, per difenderci in autonomia pagando di tasca propria, a pagare, appunto, ad autotassarci per pagare dei vigilantes contro lo spaccio e il degrado. Sono iniziative che di tanto in tanto fioriscono in alcune città. In questo caso tocca a Bologna, quartiere Bolognina. La protesta in qualche modo dell'amministrazione, il sindaco Merola e l'amministrazione comunale, che dice l'iniziativa è pericolosa e improduttiva. sta di fatto che il problema della sicurezza rimane uno dei problemi, almeno percepiti come uno dei problemi più importanti. In tutto questo, l'articolo che mi fa più della giornata, sono vari articoli in realtà che raccontano la vicenda legata, l'ultima vicissitudine legata a Bebe Vio, grande campionessa paralimpica che è stata fatta bersaglio da persone volgari, da cretini, da deficienti, che lei giustamente ha denunciato su una pagina Facebook. È stata fatta oggetto di minacce di violenza sessuale, ma molto brutte, molto esplicite. Insomma, sono i classici odiatori del web. Ci sono, è come se ci sono tutti questi leoni da tastiera che poi, se li incontri faccia a faccia, faranno gli occhietti da ragliatori di tastiera. Minacce di violenza sessuale su Facebook, la rivolta di Bebe. Leggo per esempio l'articolo del Messaggero a pagina 14. Due giorni fa cinguettava allegra, son felice, orgogliosa, in nomination nell'ultimo premio. È tornata con il premio atleta dell'anno con disabilità, foto con Usain Bolt. Poi l'odio anonimo della rete che l'ha travolta, togliendole il fiato. Lei, medaglia d'oro di scherma alle Paralimpiadi, ha perso tutto d'un colpo la gioia spontanea quando ha letto minacce, folli incitamenti a usarle violenza sessuale. Ha commentato Bebe Vio: sono delusa, amareggiata, ma ho già denunciato gli autori e ha fatto bene, aggiungo io. Non è la prima volta che si scatenano contro di lei gli odiatori del web, anche quando andò con Renzi da Obama, accusata di essere una prostituta, accusata di aver utilizzato dei vestiti che potevano essere impiegati in opere benefiche. Voi vi rendete conto l'imbecillità che c'è sulla rete, l'imbecillità diffusa, l'imbecillità irrefrenabile, l'imbecillità incontrollabile, questo dico io. Ebbene, siamo anche a questo. Chiusa, fortunatamente, la pagina che istigava gli utenti a fare davvero bruttissime cose. Minacce di violenza sessuale su Facebook, la rivolta di Bebe. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, il Fabrizio Frizzi dell'informazione. Fantastico, beh, fantastico. Grande, un abbraccio a Fabrizio Frizzi, che tutte le sere i miei bambini devono vedere in rigoroso silenzio. Mattia è molto bravo, soprattutto nell'indovinare le parole, dai, quando si danno i cinque indizi. Allora, adesso lo iscrivo, 8 anni va lì e sbaraglia tutti. Allora, cari amici, dobbiamo descrivere quello che è successo a Roma. Lo si può descrivere con gli articoli, forse è meglio capirlo attraverso le immagini che avrete visto da qualche parte. I giornali regalano le foto, per esempio la foto di questo col tirapugni è in prima pagina, sono comparsi anche i tirapugni, sì. Il giornale ne mostra un altro di tirapugni, quindi sono almeno due con il tirapugni in piazza. Quindi gli scontri, dall'altra parte c'è l'accordo. Beh, Dino Martirano racconta a pagina 2 del Corriere della Sera: accordo sui taxi dopo gli incidenti. Tra l'altro, non vorrei che si fosse lanciato questo messaggio pericoloso per cui bastano 4 saluti romani, 2 tirapugni, un po' di risse, un po' di resse e il governo, la politica dice: in un mese risolviamo tutto. Ecco, l'associazione è un po' pericolosa, come dire, l'associazione di eventi. In ogni caso, alle bombe carta, ai saluti romani dei tassisti ultra davanti al Parlamento, alla sede del PD, il governo risponde prima col voto di fiducia imposto in aula sul decreto mille proroghe che ha scatenato la guerra dei taxi contro l'anno in più concesso senza imporre regole a Uber e gli autisti NCC. Poi, in serata, quando era ancora in atto l'assedio al Ministero dei Trasporti, è arrivata la mediazione del ministro Delrio, il verbale firmato da, udite udite, 21 sigle sindacali, prevede l'immediata fine della serrata e l'impegno del governo a varare un decreto interministeriale entro 30 giorni contro gli abusivi e un successivo intervento organico in materia di trasporto con conducente. So se avete colto tra l'altro le 21 sigle sindacali. Anche su questo ci sarebbe molto da discutere. Comunque, questo è l'aspetto politico, se volete, di come la vicenda finora si è ricomposta. Dall'altra parte ci sono gli scontri, l'estrema destra, gli ultra, ci sono cronache un po' ovunque, appunto dei saluti romani, dei tirapugni, degli infiltrati molto probabilmente. Ci sono anche le polemiche per la solidarietà politica di Virginia Raggi, che è scesa in piazza, ha detto noi siamo al vostro fianco, così come ha detto Beppe Grillo. Raggi al fianco dei ribelli, protesta giusta, sto con voi. Certo, non con voi con le violenze, questo l'ha chiarito molto bene il sindaco dicendo no alle violenze, ma stiamo con voi nel senso che i tassisti sono la categoria che rappresentano il biglietto da visita anche per turisti che arrivano da tutto il mondo. E Virginia Raggi ha aggiunto: la politica deve riportarsi dalla parte della gente, ritirando quell'emendamento senza condizioni, cosa che invece non è stata fatta, ma il governo ha promesso una cosa diversa. Dopo che l'emendamento è stato approvato, entro un mese risolviamo la questione. Vabbè, se ci vogliamo staccare per un attimo dalla situazione violenta, vi voglio sottolineare due articoli secondo me meritevoli di essere letti. Il primo è quello di Carmine Fotina, siamo in prima pagina del Sole 24 Ore, prendendo spunto dalla questione tassisti, racconta delle liberalizzazioni mancate, un'estenuante storia, promesse enfatizzate, quasi sempre poi sgonfiate. L'Italia e la concorrenza dimenticata è il titolo di questa inchiesta. Aprire il mercato può valere 2,6 punti di PIL in 5 anni, racconta Fotina. A 8 anni dalla norma che imponeva l'obbligo di una legge annuale per la concorrenza, a 7 dalla prima segnalazione dell'antitrust a governo e Parlamento, si può tracciare un bilancio che non è proprio confortante, intaccato da meline, marce indietro, rimandi a leggi delega. I grandi interventi di sistema hanno lasciato il posto a micro interventi di settore. Alcuni temi proposti all'epoca dall'autorità garante e poi rilanciati sono stati praticamente ignorati dal legislatore. Altri sono stati affrontati in modo parziale, come i servizi pubblici locali, le poste, telecomunicazioni e le professioni. Quelli ignorati sono le concessioni limitate per porti, aeroporti, autostrade, legami tra consiglieri d'amministrazione nella finanza. Il disegno di legge concorrenza, che 22 mesi dopo l'approdo in Parlamento dovrebbe riprendere il cammino al Senato, sposterà di poco gli equilibri. Insomma, è un bilancio e poi c'è punto per punto su poste, salute, concessioni, partecipate, CDA e banche, professioni. Il Sole 24 Ore fa un punto di a che stato siamo di avanzamento sulla concorrenza in Italia. Simile è il commento di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, due economisti, in prima pagina del Corriere della Sera. Si interrogano Alesina e Giavazzi: cosa significano oggi sinistra e destra? Non è affatto chiaro. Sono di destra i lavoratori del Michigan e Ohio che hanno eletto Trump? Sono di sinistra gli elettori della destra populista europea contraria all'immigrazione per proteggere i lavoratori locali? È di sinistra chi difende i pensionati a tutti i costi, opponendosi a ogni limitazione della spesa previdenziale e non curandosi del debito pubblico? A noi pareva che Marx parlasse di lotta di classe, non di lotta tra generazioni. La sinistra tradizionale, negli anni 70, aveva alcuni principi chiari: protezione sociale a scapito della meritocrazia, qualunque lavoratore, anche i pigri, incapaci o addirittura i disonesti da difendere. Nella scuola e nell'università egualitaria contava solo l'anzianità e mai il merito. Mercati regolamentati, da quelli degli affitti alle licenze dei tassisti, farmacisti, professioni ben protette. Un mercato del lavoro fondato su insider ipergarantiti e illicenziabili, con giovani e donne esclusi da regole eccessivamente rigide, dove perfino il part-time era giudicato una cosa di destra. Pensioni concesse ad alcune categorie privilegiate, col risultato che la dinamica del debito era diventata una bomba a orologeria. Ecco, Alesina e Giavazzi dicono invece: è di sinistra tutto ciò? A noi pare proprio di no. 10 anni fa pubblicammo il pamphlet Il liberismo è di sinistra. Sostenevamo che se obiettivi della sinistra sono l'uguaglianza delle opportunità, la difesa dei deboli, quelle tradizionali politiche di sinistra producevano l'effetto opposto. In quel pamphlet sostenevamo che la meritocrazia è di sinistra. Certo che lo è, una scuola e un'università rigorose che premiano chi si impegna e puniscono chi non studia, che promuovono e retribuiscono gli insegnanti in base al merito e non all'anzianità, facilitano la mobilità sociale. Liberalizzare i mercati è di sinistra. L'amore per la regolamentazione dei mercati è comune alla sinistra tradizionale, così come alla destra. Il capitalismo di Stato non è di sinistra. Riformare il mercato del lavoro è di sinistra. E così via. Snocciolando e precisando, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi raccontano tra liberismo, merito, spesa pubblica come la sinistra sia sempre ferma. Oppure si muove, che non è eppure si muove, oppure si muove. In questo caso la sinistra si muove, forse in ordine sparso, siamo alla scissione tra gli scissionisti. Ebbene sì, siamo entrati nel tema molto caldo, politico, da giorni, quello della scissione del Partito Democratico. Intanto la notizia di oggi sicuramente è che si sa che cosa fa Emiliano. E Michele Emiliano non lascia il Partito Democratico, rimane. Alla fine ha accettato di rimanere, dice sono il Che Guevara del Partito Democratico. Rilascia un'intervista al Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo. Matteo, cioè Renzi, è un anaffettivo, ma agli scissionisti manca tutto, tesi, strutture, nome. D'Alema non mi ha mai chiesto di lasciare il PD, spero che restino tutti, Rossi, Speranza, Bersani, D'Alema. Scusi, ma quando mai, Emiliano? L'Italia ha bisogno di una sinistra forte. E poi non mi sembrano pronti, mancano tesi, strutture, organizzazione, financo il nome gli manca. Io invece rimango, e rimango perché ho visto che Renzi era felice che me ne andassi. Non so se ci rendiamo conto. Rimango perché Renzi era felice che me ne andassi. Ma a lei piace Renzi? Assolutamente no. Alza la voce, urla, maltratta. Aggredisce. È pure anaffettivo, napoleonico. La differenza con lui è quasi antropologica. Ma mi scusi, e gli altri, quelli con cui lei ha detto che andava, cioè Rossi, Speranza, stanno soffrendo. Spero che rimangano e mi appoggino. Perché questa è l'altra notizia, Michele Emiliano rimane e si candida a guidare il Partito Democratico, sfidando dunque Renzi e sfidando Orlando i candidati. A proposito di napoleonici, ecco qui il nostro Mauro Meazza, il nostro imperatore. Massimo nel senso non di Mauro, però imperatore Massimo, Massimo imperatore. Buongiorno. Il nostro Massimo imperatore, ma anche se è Mauro. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Non volevo rispondere stamattina, ma poi ho saputo che tu saresti stato contento se io non avessi risposto. E quindi hai risposto. E allora ho risposto. Per una continuità che mi sembra lampante. Per uno sgarbo, così. Uno sgarbo. Perché so che tu saresti stato contento. Forse anche un po' Lorenzo Nespoli sarebbe stato contento. Sì, sì. E allora io ho risposto. Va bene. Voglio dirti rapidamente alcune cose, diciamo, serie, abbastanza serie, non so se più serie. Vedremo. Allora, innanzitutto con il Sole 24 Ore di oggi, mi raccomando, c'è il Focus, cioè questo supplemento dedicato alle nuove regole per i bilanci, già ne abbiamo parlato Alessandro, so che tu tendi a ignorare il tema, ma sappi che è importante. Adeguamento imposto alle direttive europee con il decreto legislativo che, come tu sai, è il 139. Lo sai, no? Benissimo. Tra l'altro, con il mille proroghe di cui sopra, di cui ai tassisti, è stata anche trovata una soluzione per la conciliazione con le questioni fiscali. Sappi che oggi la UE ci dirà come va il nostro debito, male, grazie, lo sapevamo, sì, però bene farcelo ribadire da qualcuno. Diciamo sì, ce lo ripetono a beneficio, non so bene di cosa, ma insomma ce lo ripetono, ne riferiamo anche con le ipotesi appunto di intervento che si prospettano, così come si sta lavorando alacremente, e non è ironico, ai decreti per l'APE, l'anticipo pensionistico. Ebbene sì, leggi a pagina 2, perché a pagina 2 riferiamo appunto che si stanno limando le ultime cose per la fine della settimana, forse primi giorni della prossima, dovremmo avere tutto il quadro. Questo è molto molto importante. Oh, scusami, torno in Europa per dirti che c'è una proposta di direttiva contro l'antielusione. Sai, quelle meccanismi per cui grandi imprese multinazionali riescono a pagare lo 0,001 di imposte, tipo Apple, che peraltro ha presentato ricorso contro la decisione, contro la multa della Commissione. Ebbene, c'è una proposta di direttiva, forse per il 2020 sistemiamo le cose. Mi raccomando, non andiamo troppo di fretta. Oh, ti segnalo da meditazione oggi Marco Ludovico sull'aumento degli sbarchi. C'è un aumento di oltre 10.000 sbarchi di migranti dall'inizio dell'anno. Vorrei che questo fosse spunto di meditazione. E poi, da ultimo, anche se molte altre cose avrei da dirti, ma per farti un dispetto non te le dico, leggi sul Sole 24 Ore, il 7 marzo, hai segnato? Sull'agenda? Sì, 7 marzo. Oh, 7 marzo è il nuovo termine per l'invio dei dati alle entrate da parte degli amministratori di condominio. No, però Mauro, qui ti voglio aggiungere una cosa su Emiliano, perché so che questa ti farà piacere. Sai cosa ha detto Emiliano, secondo Repubblica? Che sono anaffettivo. No, ha detto che il PD, lui che è juventino, le ha tutte, ha detto il PD mi ricorda l'Inter. Amalo, pazzo PD, amalo. Vabbè, scusi, giuro. Non so, io mi verrebbe così, quasi, visto che è la giornata, di fare un po' gli auguri, diciamo, alla squadra, per cui... auguri alla Juve, certo! Auguri alla Juve per un'ottima Champions League oggi, augurissimo. Ma mi tratterrei, insomma, anche perché noi purtroppo quella competizione lì è da qualche anno la frequentiamo poco. Siamo italiani. Va bene, controllo la posta, perché forse Equitalia ti scrive, caro Alessandro, ci sono i crediti ancora, come dire, già definibili, ma che non ti hanno ancora comunicato. Guarda se ti scrive Equitalia, mi raccomando, guarda su Norme e Tributi. Traffico! Alessandro Milan, il dai lama dell'informazione. Allora, in tutto Renzi è volato negli Stati Uniti, è in California o sta andando in California. Ho bisogno di ossigeno, questo è il titolo del retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 7 di Repubblica. Lontano dal chiacchiericcio ha usato questa espressione con i suoi, ha bisogno di una ossigenazione, e cioè viaggio di studio, ambiente, energia, innovazione, start-up. Secondo i suoi avversari, una follia nel mezzo della scissione. Renzi comunque che tornerà nel weekend, polemiche anche su questo, 3 giorni in California, polemiche anche su questo in Italia. Va bene, la politica, bellezza. Vi segnalo alcune cose interessanti: le imprese, i pagamenti, lo Stato che paga. Stato, pagamenti scesi a 50 giorni, è il titolo di pagina 41 del Corriere della Sera. Siamo a parlare di economia. Si tratta, secondo Andrea Ducci, che scrive questo reportage, un lento percorso di avvicinamento. L'obiettivo è costituito da un paio di cifre, ossia 30 e 60, indicano i numeri di giorni entro i quali le pubbliche amministrazioni devono pagare i fornitori. Il tetto di 30 giorni vale per una buona parte delle fatture, ad eccezione delle aziende sanitarie, che hanno 60 giorni per saldare i debiti. A fissare i paletti è la direttiva della Commissione europea, ma i progetti delle amministrazioni italiane faticano ancora a colmare la distanza tra i reali tempi di pagamento e gli obiettivi prestabiliti a Bruxelles. Gli effetti di questo ritardo sono due: da un lato l'asfissia di molte imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, dall'altro il rischio ripetuto di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Ed eccola qui la classifica degli enti pubblici più virtuosi nei pagamenti. Addirittura chi paga in anticipo rispetto ai giorni c'è il comune di Castenedolo in provincia di Brescia. Poi l'azienda ospedaliera di Perugia è molto virtuosa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche è virtuoso secondo questa classifica, il Comune di Rosignano Marittimo, anche il Ministero degli Affari Esteri paga in genere in tempo. Ovviamente sentirò, questa è una media, sento già l'urlo magari di molte aziende che lavorano con questi enti a dire: ma io devo essere pagato da 7 mesi, da 8 mesi, non tutte le fatture, ma chiaramente si parla della media dei pagamenti. Comunque trovate tutto sul Corriere della Sera, pagina 41. Su Repubblica invece c'è una storia da prima pagina che riguarda l'assunzione al San Camillo di Roma di 2 medici abortisti, nel senso non obiettori di coscienza sull'aborto. Maria Novella De Luca racconta che sono stati assunti in quanto non obiettori, proprio come caratteristica. È stato fatto un concorso riservato unicamente ai ginecologi che applicano la legge 194. Questo per contrastare l'enorme ricorso all'obiezione di coscienza che in molte regioni d'Italia rende sempre più difficile accedere all'aborto. Alla fine Roma ce l'ha fatta, ha vinto resistenze, ricorsi al TAR e nelle prossime 2 settimane 2 dirigenti medici entreranno nell'equipe di interruzione volontaria di gravidanza all'ospedale San Camillo Forlanini, uno dei più grandi di Roma. E tra l'altro avranno nel contratto il rischio di licenziamento se dovessero mutare opinione e diventare obiettori di coscienza. Questo racconta Repubblica, una pagina, in prima pagina e poi a pagina 19. Vi segnalo e voglio segnalarvi 2 cose dagli esteri, se riesco 3, ma credo 2. La prima, una pagina del manifesto dedicato alla Somalia, paese al quale l'Italia è legato anche per motivi storici. C'è un nuovo presidente, pensate, si chiama Mohamed Abdullahi Mohamed, ma è conosciuto come formaggio, formaggio proprio come formaggio, o meglio nella lingua che i somali parlano oggi, come scrive Rachele Gonnelli sul manifesto, una lingua meticcia tra parole inglesi, italiane, arabe, spesso storpiate, farmaggio, che però è formaggio, retaggio proprio del nomignolo che gli è rimasto appiccicato come eredità del padre durante la sua infanzia passata in Italia. È una pagina bella dedicata alla Somalia, paese sempre travagliato. Il manifesto racconta, pagina 9, formaggio a Mogadiscio, il presidente della diaspora, si spera in una sorta di normalità per questo paese che la normalità non l'ha mai avuta. L'altra pagina che vi segnalo è di Luigi Guelpa sul Giornale, dedicata a Mugabe, presidente dello Zimbabwe dal 1980, 93 anni ieri, ha detto: non esiste una legge che impedisca la candidatura di una salma e quindi anche quando morirò potrò governare. Il dittatore immortale, governerò anche da cadavere. Questo succede in Africa e in questo caso in Zimbabwe. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Paolo Valentino dedica una pagina a che cosa? Angelina Jolie. E fino a qui tutto a posto. Angelina Jolie in Cambogia mostra ai figli come si mangiano ragni e grilli. Titolo: Angelina cucina gli insetti. Ma chi se ne frega!